Giro per la strada, occhi puntati su di me. Sul mio volto segni indelebili di mille delusioni. A volte penso che non c'è posto per me, ma non sono io che ho deciso di esistere. Vorrei andare lontano, vorrei andare lontano, vorrei andare lontano da qua. Un paese piccolo, a volte peggio di una grande città, incomprensione indifferente, capacità superiorità, competizione che margina, convinto che sia l'unica strada per la felicità. Vorrei andar lontano, vorrei andar lontano da qua. E mentre tutti si divertono io ancora qui da solo, mi dico dittato per quel che faccio o per come sono. E so che questa situazione mai finirà, sempre respinto, sempre sconfitto, forse in me qualcosa non va. Vorrei andar lontano, vorrei andar lontano da qua.